Cantieri di Carità e Giustizia. Prosegue il nostro percorso, il nostro viaggio all'interno di Cantieri di Carità e Giustizia, il progetto voluto dal Vescovo Claudio, annunciato ormai un anno fa in occasione della festa di Sant'Antonio. Il progetto prosegue con la mappatura e proprio una mappa è al centro del quaderno numero 2 che è stato distribuito qualche settimana fa, Capacità e Talenti al servizio della povertà. Perché una mappa all'interno di questo secondo fascicolo? I cantieri di Carità e Giustizia contribuiscono alla storia della città fatta di solidarietà e di innovazioni sociali. Non è il passato e non è alle spalle, è il presente che continua e agisce in modi discreti, semplici, vigorosi per affrontare i problemi con i poveri, nelle emergenze esistenziali, nelle precarietà, nelle mancanze di lavoro, nelle molte necessità quotidiane. Sono risorse che è necessario conoscere, condividere, vederle distribuite nei quartieri, nella mappa delle opportunità presenti a Padova. La mappa non è esaustiva, ma consente di capire quanto e come il sostegno ai poveri si sia ramificato in tante forme di aiuto, quanto ci sia bisogno di risposte essenziali fatte di beni necessari per vivere, per dare risposta alle necessità primarie, per orientarsi, avere sostegno e possibilità di ripartire. Chi è in prima linea per la carità e la giustizia è promotore di socialità, contribuisce a prepararla e renderla possibile, con soluzioni che non riguardano, come qualcuno potrebbe pensare, il bene dei poveri, ma il bene di tutti, che riduce le disuguaglianze e offre maggiori possibilità a tutta la città, a quanti ci vivono, alle nuove generazioni. Tra i primi interessati a questa sfida ci sono le istituzioni pubbliche. Per statuto sono chiamate a costruire il bene comune. La Costituzione italiana chiede loro di promuovere la giustizia, ridurre le disuguaglianze, valorizzare le capacità, costruire la pace, chiedere alla sussidiarietà di essere servizio di socialità responsabile, inclusiva, rendendo possibili nuovi incontri tra carità e giustizia. Il principale risultato di questo sforzo è la mappa delle capacità ecclesiali e civili presenti a Padova. Insieme sono realtà per fare la differenza tra un presente molto difficile e un futuro da accendere con la speranza, valorizzando il prendersi cura dei bisogni umani fondamentali, anche in una cultura che è inquinata dai pregiudizi e dalle paure. Per questo motivo è sempre meno in grado di affrontare questa sfida con la forza necessaria per vincerla. Questa mappa allora consente di evidenziare quali sono i vuoti da colmare, le collaborazioni da migliorare per non sprecare le possibilità a disposizione. Uno strumento a disposizione di tutti per riflettere, capire, orientarsi, intuire, investire nei cantieri di carità e giustizia. È utile e necessaria per verificare i frutti sociali conseguiti, valutare i risultati e i benefici conseguiti a vantaggio dei più deboli. È soprattutto strumento per organizzarli e promuovere beni comuni con i poveri e farne il punto di maggiore sfida per lottare veramente contro la povertà. A questa prima mappatura hanno partecipato 75 realtà che operano nella città di Padova a contrasto della povertà. Sono organizzazioni che si affiancano all'attività istituzionale del Comune di Padova a contrasto della povertà. In quasi 6 casi su 10 sono organizzazioni che gravitano attorno a realtà ecclesiali, quindi parrocchie, vicariato o diocesi, Caritas, Conferenza San Vincenzo De Paoli, per citare forse le più famose. Per il 12% sono organizzazioni che fanno capo a istituti religiosi e ad associazioni da loro ispirate, e dunque al mondo religioso si riferisce circa il 70% delle organizzazioni censite. Il 22% sono associazioni e poi per un 8% cooperative, fondazioni e sindacati. Quasi la metà di queste operano a Padova da meno di 20 anni, quindi sono piuttosto giovani. Circa un terzo sono mature, perché sono presenti in città per un periodo da almeno 21 fino a 50 anni fa, e una su 5, quindi il 20%, opera a Padova da più di 50 anni. Cucine economiche popolari, mensa dei poveri dei Frati Cappuccini, opera a pane dei poveri della Basilica di Sant'Antonio, Associazione Universale di Sant'Antonio con il pane dei poveri. In questa mappatura un aspetto interessante è la localizzazione, cioè dove sono, dov'è la sede. Prevalentemente si distribuiscono nella zona centrale della città di Padova, nei quartieri a nord e nei quartieri a sud, meno invece presenti a ovest e a est. È bene tuttavia precisare che spesso l'attività è realizzata un po' in tutta la città, quindi a prescindere di dove sia la sede, quindi l'area territoriale che ciascuna di queste organizzazioni, 75 ripeto, copre è effettivamente poi tutta la città, non necessariamente lì dove poi magari si trova la sede istituzionale. Un primo aspetto degli interventi realizzati è l'organizzazione opera a contrasto della povertà con attività diretto contatto delle persone e o in supporto ad altre organizzazioni. L'80% agisce direttamente con le persone che si trovano in disagio economico, solo il 5% opera esclusivamente a supporto di altre organizzazioni, il 12% contrasta la povertà sia direttamente che indirettamente. Sono state individuate 18 possibili tipologie di interventi caratterizzate da differenti elementi di complessità. Si va da quelli più semplici di presa in carico della persona, quindi l'ascolto, l'informazione, l'accompagnamento, la distribuzione dei beni di prima necessità, la mensa, l'assistenza economica. Poi c'è una parte media di complessità: ricerca, offerta alloggio, tutela del lavoro, sostegno psicologico, consulenza legale, assistenza sanitaria, fino ad arrivare alle attività di maggiore complessità: l'accoglienza diurna, quella notturna, l'accoglienza H24, l'educazione, la formazione, poi l'integrazione, la socializzazione e il sostegno al lavoro. Ogni organizzazione mappata realizza 5 tipologie di interventi. Il minimo è 1, il massimo è 13. Il 96% delle organizzazioni, quindi praticamente tutte, eroga almeno 2 categorie di intervento. La maggioranza eroga 3 tipi di intervento, e quindi un aiuto che agisce con più modalità nel tentativo di rispondere in maniera più completa alle richieste ricevute. E questo dunque un primo sguardo a volo d'uccello, come si suol dire, su questa mappatura delle attività, delle opere che si svolgono, sono in corso a Padova da più o meno tempo, una vera e propria mappatura a cui hanno partecipato 75 realtà attive in città di Padova. Cantieri di Carità e Giustizia.